I lavori di domani di Anna Marino. Nel futuro ogni figura professionale dovrà essere in grado di adottare una prospettiva che vada oltre la semplice massimizzazione del profitto dell'impresa nel prendere le proprie decisioni strategiche. Alcune figure professionali nuove, specifiche, nate in questo ambito sono per esempio i Sustainability e CSR Manager, figure volte nello specifico a supportare l'impresa nel raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità. E noi, come sempre e come per ogni puntata del Lavoro di Domani, sul sito di Radio 24 la pagina programma vicino al podcast e alla descrizione di questi lavori segnaleremo subito app, siti utili e link su cui cliccare per avere informazioni e la formazione e, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura, su cui cliccare sui vostri PC o device per avere informazioni e la formazione, perché no, dritte sulle opportunità per questa figura, grazie ad Antonella Moretto che si occupa della formazione proprio di Sustainability e CSR Manager. Negli ultimi anni di fatto la sostenibilità è diventata una prerogativa per le imprese e quindi tutte le imprese stanno cercando di adottare modelli e competenze sui temi della sostenibilità. Alcune di queste hanno anche proprio inserito delle figure ad hoc come il Sustainability Manager o il CSR Manager, che hanno l'obiettivo di supportare l'azienda nella transizione verso la sostenibilità. Per dirlo in termini semplici, li possiamo immaginare come se fossero dei consulenti interni con un focus specifico sulla competenza in termini di sostenibilità, che guidano e supportano le altre figure professionali come revisione dei processi, implementazione dei progetti, formazione e ingaggio delle altre figure, proprio per fare in modo che la sostenibilità sia pervasiva in tutte le scelte che l'azienda prende. Parliamo allora delle skill, dei compiti di queste due figure, le distinguiamo ovviamente nelle loro giornate tipo, se esistono, e che cosa fanno giorno per giorno nelle aziende o come consulenti. Sono delle figure che appunto devono essere in grado di analizzare il business a 360 gradi, andando a comprendere quelle che sono le sfide che l'azienda si trova ad affrontare e a identificare la modalità più corretta per poi tradurre queste sfide in progetti concreti che l'azienda deve realizzare, che quindi significa andare a comprendere come posso dover rivedere i prodotti in un'ottica di sostenibilità, andare a vedere come posso ridisegnare i miei processi produttivi in ottica sostenibile, come quali sono gli impatti che la mia azienda ha sugli aspetti di sostenibilità, quindi è proprio una capacità a 360 gradi. Le competenze quindi sono molto, molto eterogenee e variano da un'analisi dei processi a capacità di project management, a capacità soprattutto di interloquire con le diverse funzioni aziendali e lavorare molto con quelli che sono i ruoli di innovazione, di R&D, di ridisegno dei processi, col marketing e la comunicazione per poterlo veicolare in maniera puntuale. La principale differenza tra queste due figure è molto spesso nel perimetro che viene preso in considerazione. Quello che viene chiamato CSR Manager ha generalmente un'attenzione molto forte soprattutto su quelli che sono gli aspetti di sostenibilità sociale e molto legato anche agli aspetti di rendicontazione, monitoraggio, accounting. Invece il Sustainability Manager tende ad avere una visione più a 360 gradi, che quindi include anche tutte le componenti di sostenibilità ambientale, e in genere, più che avere un ruolo legato al reporting, tende a lavorare molto su quelli che sono appunto i processi, la revisione dei prodotti e le implicazioni anche per tutti gli stakeholder aziendali. Voi formate queste figure, come le formate, in che modo, qual è appunto step by step il corso che fate e i punti principali di questa formazione, che ovviamente anche in questo momento potrebbe essere utile, e soprattutto magari avete anche pensato una formazione a distanza in emergenza sanitaria. Assolutamente, la formazione cambia in realtà a seconda che la figura sia junior o sia senior. Nel caso in cui la figura sia junior, quello che abbiamo immaginato, quindi sono dei neolaureati che ambiscono a occupare dei ruoli orientati alla sostenibilità, in quel caso abbiamo pensato a dei percorsi full time di un anno molto specializzati proprio sui temi di sostenibilità, che hanno l'obiettivo di spiegare a queste figure giovani perché la sostenibilità oggi è una priorità, che cosa significa disegnare una strategia, un progetto di innovazione, quindi disegnare e guidare un'azienda sostenibile e ragionare poi su come la sostenibilità si traduce all'interno dell'implementazione delle diverse figure aziendali. Diversa è la situazione invece se la formazione sempre più richiesta riguarda dei profili senior, quindi delle persone che magari già lavorano in azienda anche da diversi anni, hanno già delle competenze più di general management, ma vedendo un'opportunità nel trasformarsi in sustainability manager o CSR manager richiedono di colmare questo gap. In quel caso la formazione è molto più specializzata, generalmente in weekend, abbiamo quindi immaginato dei formati dove uno si è coinvolto 4, 5, 6 weekend nello specifico e vengono fatti degli approfondimenti mirati su quelli che sono i temi rilevanti, quindi come gestire le collaborazioni in un'ottica di sostenibilità, come misurare l'impatto, come rivedere i tuoi processi in un'ottica sostenibile, ma molto mirati nell'andare a colmare quelle che sono le competenze presenti. Queste figure sono anche abilitate e capaci di ottenere i fondi europei, sia quelli che ci sono già come dire stanziati per quanto riguarda la sostenibilità, ma anche quelli che arriveranno? Sì, assolutamente. Uno dei loro ruoli è anche quello di monitorare costantemente quelle che sono le proposte di fondi europei che esistono e quindi di impostare i bandi, creare le cordate che servono per ottenerle, ma un bravo sustainability manager è anche in grado di guidare e di veicolare, lavorando con le proprie imprese, quelle che saranno le esigenze della comunità europea o dei fondi europei stessi. Ci sono delle competenze base, ovviamente bisogna averne alcune un po' specifiche, non si può partire da qualsiasi formazione. No, assolutamente. Allora, la maggior parte delle persone che ricoprono questi ruoli spesso hanno un background ingegneristico, proprio per avere la capacità di capire il ruolo che giocano le tecnologie, i processi, appunto, soprattutto il ruolo tecnologico è particolarmente importante. Oppure tanti sempre più hanno un ruolo, invece un background più economico, soprattutto se lavorano negli ambiti di marketing o comunicazione, proprio per capire anche quelli che sono gli impatti economici per l'azienda che la sostenibilità può portare. È molto importante anche capire il tuo percorso. Qual è il tuo ruolo, dove ti sei formata per arrivare fin qui a insegnare queste importanti skill utili in questo momento e forse chiave per la sostenibilità del futuro? Io sono un ingegnere gestionale al Politecnico di Milano, quindi mi sono formata qui sia laurea triennale, sia magistrale, sia dottorato. Durante il dottorato in particolare mi sono appassionata per i miei temi di ricerca a questi ambiti, ho iniziato a lavorarci con le imprese, con una prospettiva che è quella di cui io mi occupo, che è quella della gestione delle filiere, la gestione della supply chain, e quindi unendo il background tecnico da ingegnere alle competenze acquisite lavorando direttamente con le imprese, quello mi ha portato a insegnare questi temi. Qual è la forchetta di guadagno per questi lavori, queste figure, anche a seconda della seniority? È assolutamente analoga a quella di qualsiasi tipo di general manager, per cui le figure giovani hanno un'entratura in azienda anche ad un ottimo livello, che quindi ci sono dei primi salari che possono variare da 30-35 mila euro fino a 45-50 mila euro a seconda di quanto la competenza sia tecnica. Man mano che si cresce di seniority, ovviamente questo dipende dal tipo di azienda e dal background che si ha, ma porta delle forchette di guadagno assolutamente comparabili con le migliori ruoli apicali in azienda, le figure e i principali general manager di un'impresa. Quindi conviene anche aggiungere queste competenze molto spesso a quelle che si hanno di base, perché fondamentalmente è un orientamento che ha di ritorni non solo ovviamente valoriali, perché la sostenibilità è un valore diciamo a 360 gradi, sia per la responsabilità sociale dell'impresa, quindi CSR, sia per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, sociale, finanziaria, insomma di tutte le imprese, quindi orientare il proprio lavoro e orientare la propria carriera rispetto a questo serve anche orientare un po' la società e le aziende. Per rispondere a quali percorsi consigliate, consigli per la formazione della figura, di queste due figure, e per rispondere alla domanda se è un lavoro molto ricercato e dove si può trovare, è ora di prendere appunti, perché lo dico agli ascoltatori, troverete anche sul sito, nell'introduzione al podcast, i link, le app e i siti utili per formarsi, informarsi e ovviamente del lavoro di cui si parla oggi. Grazie a Antonella Moretto, che ci parla appunto della formazione del Sustainability Manager e del CSR Manager. Quali sono questi link utili, anche i vostri? Sicuramente per cercare lavoro il link utile principale rimane LinkedIn, dove tutte le aziende postano sia l'opportunità sia le competenze che stanno cercando, quindi quello è il suggerimento maggiore. Per quanto riguarda invece la formazione, in primo luogo vi indirizzo sul nostro sito som.podimi.it, dove potete trovare tutti i percorsi di formazione a seconda di quello che è il vostro livello di interesse. Qualora invece voleste cercare anche della formazione più magari parcellizzata, più facilmente fruibile, io suggerisco che in rete esistono moltissimi MOOC ben fatti. Due siti sono, uno sempre il nostro Politecnico, che è poc.polimi.it, e un altro invece è quello più famoso forse a livello internazionale, che è Coursera, dove si trova moltissimo materiale di altissima qualità proprio per potersi formare gratuitamente su questi temi. Mi raccomando, segnatevi tutto e lo troverete comunque in pagina. Ultima domanda: che tipo di sviluppo vedi per il futuro sostenibile di questa figura, e voi che cosa fate per incentivare questi nuovi lavori? Io credo che nel futuro in realtà queste competenze saranno imprescindibili, e quindi al di là di queste figure professionali, queste saranno delle competenze che qualunque ruolo professionale in azienda dovrà avere. Noi per incentivarlo organizziamo proprio dei momenti di formazione, delle round table, dei momenti di contatto con gli HR, anche dei career day dedicati agli studenti, in modo tale da fargli capire sia quali sono le opportunità professionali, sia perché questo aspetto ha un valore. Perché di fatto, come dicevamo prima, c'è valore per la società, c'è valore per le imprese, c'è valore perché saranno delle nuove competenze che cresceranno sempre, sempre di più, e di cui ce ne sarà sempre più bisogno.